sono ancora più di 350, ma scendono di 7.000 unità gli attualmente positivi, confermando il calo delle ultime ore. E visto che i numeri sono confortanti, l'attenzione della politica si sposta dalle questioni sanitarie ad altro. L'idea di una sanatoria dei migranti per colf e lavoro nei campi, che spacca la maggioranza. La vicenda dei boss, col ministro Bonafede che corre ai ripari e ipotizza un decreto per riportarli in carcere. Il tutto mentre si ragiona su un'accelerazione della fase 2, con più aperture a partire dal 18 maggio. Chiedevano attenzione su questo fronte anche i ristoratori di Milano, che ieri hanno manifestato a debita distanza, ma beccandosi ciascuno 400 euro di multa per violazione del divieto di assembramento. Più aperture, ma con i giusti dispositivi di protezione? Ma le mascherine non si trovano dappertutto, anzi, e spesso non ai 50 centesimi più IVA promessi dal commissario Arcuri, che ieri è tornato a convocare le parti, prendendosela con distributori e farmacisti. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. Ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno. È giovedì 7 maggio, sono le 6:30 e questo è 24 Mattino. Sempre Simone Spezia al microfono con la task force di oggi, che è composta da Carmelo Lauricelli in regia, Giorgio De Luca in assistenza e redazione e poi tutti gli altri: Alessandro Marco Tulli, Gloria Guerrera e i nostri autori Margherita Ina e Francesco Ciaraffo. E voi che siete la mia task force preferita, tra le 750 che abbiamo attrezzato in questi giorni. 349-238-6666 se volete mandare un messaggio, WhatsApp audio, la vostra voce. Come va questa fase 2 dunque? Come vanno le cose? Dai, ditemelo. Volete avere un'idea di quanto è surreale a volte il dibattito politico? Noi abbiamo una parte che sta ragionando su una sanatoria ed è Italia Viva che sta spingendo molto in questa direzione, appoggiata naturalmente dal Partito Democratico. Per la questione del lavoro nei campi soprattutto c'è un'altra parte politica che dice: no, mandiamo quelli che percepiscono NASPI e reddito di cittadinanza a lavorare nei campi. Ed è il centrodestra, la destra, ed è anche quello che probabilmente sarà contenuto nel decreto maggio. E poi cosa succede? Che se parli con le associazioni di imprese agricole, con chi se ne occupa, ti dice che non è quello che gli serve, nessuna delle due cose. Gli servono i voucher e gli serve soprattutto che si aprano i corridoi verdi, i cosiddetti corridoi verdi, con i paesi dell'est, dove ci sono i lavoratori specializzati. Perché l'agricoltura, ragazzi, non è più quella, è solo in piccola parte quella di una volta, della mera raccolta del pomodoro nel campo. Serve gente, per esempio, che sappia guidare un trattore, tanto per dare un'idea, tanto per dare un'idea, che guidi dei macchinari. Living in a ghost town. Allora, ieri da cosa iniziare? Ma sapete che facciamo? Iniziamo da quello che è successo ieri a Milano, Questi ristoratori che sono andati in piazza a protestare, hanno messo delle sedie all'Arco della Pace, in Parco Sempione, hanno messo delle sedie a distanza, a debita distanza, un metro e passa l'una dall'altra, si sono seduti là e per dire abbiamo delle difficoltà, aiutateci in sostanza, è arrivata la Digos. Siamo nel piano del controllo perché i verbali paventati stanno arrivando per assembramento, appunto infrazione delle regole durante l'emergenza coronavirus. Sembrerebbe i 400 euro di cui parlava il direttore Minzolini confermati anche per i ristoratori che sono qua, che abbiamo visto prima nel flash mob. Gli animi sono tesissimi. Questa signora mi stava raccontando che oggi sta andando a pagare di tasca propria i dipendenti. Ad aiutare chi c'è, cioè chi c'è bisogno, perché cioè, i nostri dipendenti non hanno ricevuto la cassa integrazione. Abbiamo notizia stamattina di ragazzi che l'hanno ricevuta ieri, che a fronte di buste paga da 1.400 euro hanno ricevuto 551 euro. E ancora. Questi ragazzi bisognerà aiutarli ad andare a fare la spesa, a pagare una parte dell'affitto, a pagare le bollette, quantomeno veniamo qui a manifestare per giunta e ci fanno la sanzione. Adesso abbiamo chiesto a loro di non fare la sanzione almeno a dei dipendenti che sono qui, perché hanno sanzionato anche loro. No, vabbè ragazzi, prego. Eh sì, c'è anche il racconto sui giornali, poi ci andiamo in rassegna stampa, di una cuoca che era andata là a protestare insieme al suo datore di lavoro e hanno multato anche lei, divieto di assembramento. Mi scrive Marco da Pesaro, buongiorno Simone, con la gente che c'è in giro siamo in fase 8, non fase 2. Allora, un'altra piccola testimonianza di quanto è incredibile questo paese, Il vice ministro della salute Sileri. Attenzione, è il vice ministro della salute. Vuol dire che lavora al Ministero della Salute. E in aggiunta è anche un medico. Cosa vuole fare? Vuole ricostruire qual è stata un po' l'evoluzione del virus. Anche la parte non tracciata, come si racconta su molti giornali, probabilmente era presente già da novembre, dicembre in alcuni paesi. Per esempio in Francia è stato sostanzialmente accertato. E dunque, che cosa racconta Sileri? Sentiamolo. Uno ogni 10.000 abitanti è il numero necessario, non lo diciamo solamente noi, ma anche le linee guida internazionali. È un servizio che già esiste, ripeto, la medicina preventiva, i dipartimenti di medicina preventiva, però quello che abbiamo osservato in questa epidemia è che non solo c'era disomogeneità fra le regioni, ma anche all'interno della stessa regione, ed è stato forse l'anello mancante in alcuni servizi territoriali. Quanto tempo è che questo virus circola in Italia? Questo potrebbe darci, francamente, io chiesi circa un mese e mezzo fa, due mesi fa, i dati delle polmoniti del nord Italia della fine dell'anno e di gennaio, e sono ancora in attesa di averli, francamente. Come in attesa di averli? Sì, sono ancora in attesa di chi averli. Chi glieli deve dare? No, facciamo un appello televisivo. Date i dati a Sileri. Non mettiamo il dito nella piaga, nel senso che sto ancora aspettando questi dati, spero che arrivino in tempi rapidi. Ed era ad Agorà, ma capite, cioè questo Sileri lavora al ministero della, poi ha avuto anche il Covid, quindi un periodo un po', no, di buco, per così dire. Lavora al Ministero della Salute, è il vice ministro della salute e sono due mesi che ha chiesto dei dati e non riesce ad ottenerli. Ma come si fa? Come si fa a lavorare in questo modo? Ci fa notare qualche ascoltatore, dice, ma insomma la manifestazione all'Arco della Pace dei ristoratori l'altro giorno, Giorgia Meloni ha manifestato in piazza Montecitorio, le multe i deputati di Fratelli d'Italia le hanno prese oppure no? Sarebbe interessante saperlo. Angelo Maria Perrino, direttore di Affari Italiani, come stai Angelo? Un po' che non ci si Ciao, sente. Simone. Bene, tutto a posto, tutto a posto. È un piacere sentirti, tutte le mattine sono un po' fedelissimo. Bene, senti Angelo, allora, qua si sta pensando a un'accelerazione della fase 2, insomma forse un po' prematuro in tutta sincerità, forse in alcune regioni si potrà fare e già il governo sta pensando a a un'ipotesi di territorializzazione. E però forse veramente è un po' presto dire già oggi che il 18 una serie di attività ripartono. Ma Simone, io direi che Conte sta dando garanzie di quel gradualismo riformista che egli rivendica, e quindi non sarei preoccupato se con grande circospezione, con grande attenzione ai dati, si spinge sull'acceleratore della ripresa, perché è inutile ricordarlo, si può anche morire di crisi economica. In tal caso avremmo detto che l'operazione è andata bene, ma il paziente è morto. Dunque bene si fa a verificare dovunque sia possibile che si possa dare luogo alla ripresa. Sono d'accordo, per esempio ero d'accordo sin dall'inizio con la Presidente della Regione Calabria sul fatto che se in Calabria la situazione epidemiologica è tranquilla non si capisce perché si debbano applicare i protocolli che si applicano alle zone rosse. E questo pragmatismo, questo gradualismo a me piace molto, è un segno di grande attenzione alla realtà, sì, che Conte sta applicando. Va detto, piaccia o non piaccia, il Presidente del Consiglio si sta dimostrando un uomo molto pragmatico, molto flessibile, molto attento alla realtà. Mm. Senti Angelo, però forse dato che un po' oggi i giornali ne parlano, no, di questa ipotesi di anticipare le riaperture, far ripartire le cose, forse tutto questo, questa accelerazione, più che alla situazione epidemiologica, forse è dovuto al fatto che i meccanismi predisposti dal governo in molti casi non stanno funzionando. Pensa al tema della liquidità alle imprese, pensa al fatto che il decreto aprile, che poi è diventato decreto maggio, e speriamo che sia maggio e non sia giugno, o, insomma, al momento sì, ancora certo, non si vede. Sì, sì, è evidente una delle tante cose, diciamo, il giorno che faremo il decalogo delle cose che il coronavirus ci ha insegnato, al primo posto io metterei il vero virus della nostra Italia del terzo millennio, e cioè la burocrazia. Voglio dire, non si può attribuire al governo il fatto che poi a cascata non funzionino gli uffici, le banche ritardino e travisino il senso dei provvedimenti, entrando nel merito di credito più di quanto non sia lecito, visto che c'è una garanzia statale sui prestiti. Cioè, non possiamo sempre cercare piove governo ladro. Il governo ha fatto dei provvedimenti, poi i provvedimenti si incagliano, per esempio, in chi deve scriverli materialmente, no? con quella incredibile profluvio di norme, commi, di cui avete parlato nei giorni scorsi brillantemente, sì, con il mio amico Sergio Rizzo. E allora dobbiamo chiarire bene, senza qualunquismi, dove stanno i problemi. Il governo ha agito con molta tempestività e i provvedimenti li sta elaborando, e accanto alla burocrazia c'è questa fibrillazione politica continua e a volte strumentale, che crea anche lì una litigiosità che in momenti come questi non dovremmo permetterci, dovremmo marciare tutti uniti. Questo è un tema, Angelo, sicuramente la fibrillazione politica è un tema, siamo perfettamente d'accordo. Anzi, facciamo una cosa, Carmelo, Lauricella, iniziamo a metter mano alle questioni che hanno a che fare con la famosa sanatoria, la sanatoria, quella per i migranti, con la ministra Bellanova che minaccia le dimissioni. Sentiamocela, va. O noi diamo a queste persone la possibilità di lavorare attraverso un permesso di soggiorno stagionale per 6 mesi in modo legale, o ci sono due ipotesi. Uno, che gli imprenditori che non vogliono fare ricorso al caporalato, alla criminalità, lasciano marcire i prodotti nei campi. L'altro è che la criminalità continua ad utilizzare la vita di queste persone e anche a ricattare le imprese. Non regolarizzare queste persone significa essere i protagonisti principali della diffusione dell'illegalità, della concorrenza sleale e dell'alimentazione del caporalato. Allora, un governo non può non risolvere questa contraddizione. Se non risolve questa contraddizione, è evidente che persone come me non sono utili nella loro funzione. E però, Angelo, scusami, tu mi hai parlato di tempestività. Qua, questo è un problema che viene sottolineato praticamente dall'inizio del lockdown, ok? La carenza di manodopera nei campi, che si arrivi a redderazionem solamente adesso, insomma, mi pare un po' assurdo, cioè che l'esecutivo nel suo complesso non se ne sia occupato. Va detto, è Bellanova, il tema l'ha posto sempre, e però non ci si è messa mano a questa cosa. Certo, certo. Infatti è evidente che questo è un percorso stop and go con un governo di coalizione che sappiamo essere nato con lo sputo, come diceva Craxi, cioè mettendo insieme forze eterogenee, gruppi di lavoro che fanno fatica a condividere una sensibilità sui temi. E tutto questo ci sta, è l'Italia, non ci sono bacchette magiche, il percorso è dialettico, direbbe Hegel, con tesi, antitesi e poi le sintesi. Dobbiamo abituarci a questo andazzo. D'altra parte, se guardiamo all'estero, non stanno meglio. Se pensiamo alla Grande America, la Gran Bretagna. L'America, che da sempre individuiamo come il luogo della democrazia compiuta, con le decisioni rapide e supportate dalle grandi capacità tecnologiche, scientifiche, economiche, e anche lì sembra di assistere al teatro dei pupi tra Trump, la sua amministrazione e i suoi epidemiologi. Quindi io cercherei di spegnere i fuochi nell'interesse della nazione. Non è un giochino il virus, non è colpa di Conte se il virus si è diffuso. Vacciniamoci anche al rischio della ricerca del capro espiatorio, che è un rito tribale rispetto al quale Freud e la psicoanalisi ci hanno ampiamente messo in guardia. Niente capri espiatori, razionalità, riformismo, gradualismo e nervi saldi. Traffico. Mattino. Poi c'è tutta l'altra questione politica, è quella che ha a che fare con il ministro Bonafede. Dunque, ieri abbiamo appreso che prima sembrava un problema limitato ai boss al 41 bis, poi si è scoperto che in realtà sono stati scarcerati per motivi di salute. Altri mafiosi conclamati, condannati, nel numero di 376 colonnelli della mafia, tra loro, che ne so, anche il carceriere del bambino che poi fu sciolto nell'acido, per darvi un'idea, per darvi la misura di chi è stato scarcerato. Ovviamente, se sono persone bisognose di cure, una soluzione va trovata, perché il carcere non è, non siamo un paese con la pena di morte, il carcere deve essere a determinate caratteristiche, le garanzie dei detenuti vanno mantenute, però forse qualche altra soluzione si poteva trovare. Fatto sta che adesso Bonafede corre ai ripari e dice: vabbè, adesso faccio un decreto e li riporto tutti dentro, insomma. Comunque, sentiamo Bonafede sul tema delle interferenze nella nomina di Di Matteo al Dipartimento dell'Amministrazione delle Carceri, che è una cosa laterale collegata a questo. Sentiamo. Nel giugno 2018 non vi fu alcuna interferenza, diretta o indiretta, nella nomina del Capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Perché l'accusa qual è? L'accusa è quella, appunto, che lui abbia fatto marcia indietro su pressione di qualcuno, forse dei boss, e Bonafede dice: anche con riferimento alla recente nomina del nuovo capo del dipartimento, ho seguito mie valutazioni personali nella scelta, la cui discrezionalità rivendico. Ogni altra ipotesi o illazione emersa nel dibattito politico di questi giorni è del tutto campata in aria. Perché, come risulta anche dalla ricostruzione temporale dei fatti, le dichiarazioni di alcuni boss erano già note al Ministero dal 9 giugno 2018 e quindi ben prima di ogni interlocuzione da me avuta con il diretto interessato. Così la politica, e poi appunto ci sono tutte le questioni che continuano a rimanere in campo, quelle che hanno a che fare con Covid-19. E per esempio, il cosa mettiamo sui nostri volti, queste maledette mascherine. A proposito, voi le avete cercate? Le avete trovate? Mandateci un WhatsApp audio, raccontatemelo, ditemelo anche con degli WhatsApp scritti, così ci dite un po', un piccolo sondaggio tra gli ascoltatori di Radio 24. Fatto sai che queste famose mascherine a 50 centesimi, indagine di ieri di Cittadinanza Attiva, non è che si trovano un granché, In alcune regioni vengono distribuite gratuitamente. Ogni mattina c'è un ascoltatore che mi dice: qua a Prato ce l'hanno data, cioè noi andiamo e le ritiriamo. Vabbè, questa è una scelta della regione, probabilmente saggia. E poi è partita questa idea del commissario Arcuri, che è di fatto il commissario agli approvvigionamenti, e che ha detto: ci saranno delle mascherine in distribuzione a 50 centesimi più IVA. Risarciremo i negozi che precedentemente e le farmacie che precedentemente li hanno comprati a cifre più alte. È fatto sai che questa roba non si trova. Achille Gallina Toschi è presidente di Federfarma Emilia Romagna e componente del Consiglio di Presidenza Nazionale di Federfarma, che è l'associazione più rappresentativa delle farmacie. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, so che ieri, tra l'altro, il commissario Arcuri ha convocato voi, ha convocato i distributori e vi ha dato una strigliata, ho capito bene? O almeno ci ha provato? Ma guardi, intanto una precisazione, ha fatto bene lei a precisare che sono 0,61 centesimi e non 0,50 come viene pubblicizzato dallo spot del governo, perché c'è l'IVA fino a quando ci sarà, quindi sono 61 centesimi. Ieri c'è stato effettivamente un incontro tra la Protezione Civile e i distributori, a cui Federfarma ha presenziato, ma non come parte in causa. Più che una strigliata, è stato un confronto per capire quando arriveranno queste mascherine, perché la Protezione Civile aveva appunto garantito il commissario Arcuri dei fornitori, e ieri sono stati appunto comunicato quale sarà il fornitore, che dovrebbe già da domani consegnare le prime 2 milioni di mascherine ai distributori intermedi, che poi le daranno a cascata sulle farmacie. Quindi al momento non ce l'avete? Al momento noi abbiamo utilizzato, come diceva lei, le scorte precedentemente acquistate a prezzi più alti e vendute a 61 centesimi, ma queste scorte si sono praticamente esaurite in quasi tutte le farmacie italiane. Sono state fatte iniziative in varie regioni di distribuzione gratuita nelle farmacie di mascherine messe a disposizione dalle regioni, quindi noi, se le mascherine ci sono, le regaliamo, se sono da regalare, o le vendiamo con un minimo ricarico se si trovano. Quindi il problema, insomma, le farmacie sono assolutamente disponibili, come sono state dal primo momento dell'emergenza. Adesso speriamo che con questo accordo di ieri tra i distributori e il commissario Arcuri, le mascherine finalmente arrivino e siano a disposizione dei cittadini che effettivamente le reclamano. Da voi in Emilia Romagna come vanno le cose nello specifico sul vostro territorio? In Emilia Romagna abbiamo fatto un'iniziativa, come dicevo, di distribuzione gratuita di 3 milioni di mascherine ai cittadini, donate dalla regione Emilia Romagna, e adesso siamo nella stessa situazione invece per quel che riguarda quelle a pagamento, perché sono esaurite, quindi siamo in attesa che tra oggi e domani arrivino a disposizione dei cittadini. Quindi diciamo così, nel giro di questa settimana il problema, anche questo problema, dovrebbe essere risolto. Sì, noi ce lo auguriamo, perché veramente c'è molta richiesta, e insomma a fronte di dichiarazioni così è importante dare una risposta, quindi siamo sicuri che dopo l'incontro di chiarimento di ieri tra Protezione Civile e distributori, queste arriveranno nelle farmacie. Ho un po' di messaggi di ascoltatori, ci arrivano su questo, ci dice qualcuno: mascherine trovate l'altro giorno alla Conad, 50 pezzi, 25 euro. Tra l'altro è un parrucchiere, parrucchiera o parrucchiere, insomma, quindi in una fase particolarmente delicata. Delicata. A Pescara lunedì ho comprato 5 mascherine in farmacia, totale 3 euro. Insomma, un altro ci dice: vabbè, io faccio il saldatore, quindi ce l'avevo già in casa dell'FFP2 e ho avuto pochi problemi, tutto sommato. Allora, dispositivi di protezione personale che ovviamente saranno fondamentali in questa fase 2 e nella cosiddetta fase 3. Fase 3 che dovrebbe vedere una riapertura progressiva anche di bar e ristoranti un po' sul modello dell'anticipo fatto dalla Regione Calabria. Sentiamo il ministro Boccia che tra l'altro sarà ospite nostro, è alle 8.35 mio e di Maria Latella. Sentiamo Boccia, va. Io voglio fare un appello ai ristoratori che sono a Milano e attraverso loro a tutti i ristoratori italiani e a tutti i proprietari e i lavoratori dei bar. Noi non solo ci siamo, ma stiamo correndo e stiamo anche correndo tanto, ma devono sapere che lo stiamo facendo per tenerli in sicurezza. Le misure messe in campo negli ultimi 35-40 giorni sono misure che non sono mai esistite nella storia della Repubblica. Ancora Boccia, qua c'è un grande tema, lo dico proprio all'ascoltatore che fa il parrucchiere, così come agli ascoltatori che abbiamo e che fanno i baristi, i ristoratori e via dicendo. C'è un grande tema, io lo so perché me l'avete scritto spesso, che è quello delle linee guida, ossia non è che da un giorno all'altro puoi dire ok riaprite senza darmi delle indicazioni su come devo riaprire, come devo attrezzare il negozio, come devo attrezzare il mio bar, il mio ristorante, che cosa devo fare esattamente, quali sono le procedure di sicurezza che devo seguire, i clienti come li faccio entrare, è su prenotazione, non è su prenotazione, mi devo dotare di nuova tecnologia, come mi organizzo, molto semplicemente. Cioè questi sono imprenditori, gli imprenditori hanno bisogno di un minimo di certezza, cioè già questo stato è piuttosto complesso. Date delle certezze agli imprenditori, così Boccia. Quando lei entrerà in un negozio al dettaglio, si misurerà una maglietta, poi la lascerà sul banco, poi andrà un'altra cliente e farà la stessa cosa, e poi un'altra ancora e farà la stessa cosa. Deve avere la certezza, lei da un lato e la commessa, sì, o il commesso o il proprietario dall'altro, che non vi passate il contagio. Per far questo è necessario fissare regole chiare che stiamo decidendo. Scrive Lorenzo Di Sario, sindaco di Canosa Sannita, provincia di Chieti. Nel mio paese le mascherine le diamo noi del comune, 1500 abitanti, ne abbiamo distribuite 6000. Bravo, bravo. E anche questo è un modo di risolvere il problema. Angelo Maria Perrino, a chiudere con te, c'è una questione che ha a che fare con le certezze da dare agli imprenditori in termini operativi e in termini fiscali, perché anche qua sapere o non sapere che se tra un mese e mezzo, due mesi devi pagare le tasse che dovevi è fondamentale. Io spero che il decreto maggio, appunto, come dicevo, arrivi entro maggio. Questo delle imprese è un argomento delicatissimo, come dicevo si rischia di morire di crisi economica. Ieri c'è stato un suicidio a Napoli di un imprenditore che è preoccupato di non riuscire a far fronte agli impegni fiscali, previdenziali, agli stipendi, è stato trovato impiccato nel suo ufficio. Di situazioni analoghe se ne stanno ripetendo qua e là. Le imprese hanno bisogno di un'attenzione particolare perché in particolare le piccole e medie sono la forza del sistema economico italiano, e in questo senso sì, bisogna accelerare e lavorare con tutti gli strumenti a disposizione, detrazioni fiscali. Lo Stato deve alle imprese tanti soldi e da anni non si riesce a farlo. Io opererei in questo senso, sì, per accelerare, sì, evitando di passare per il sistema bancario che, diciamolo, non sempre si rivela attento alle esigenze più ampie della, sì, società, sì, e pensa sempre da dire, ai suoi bilanci. Sì, ecco. da dire, Angelo, insomma, a parte che le banche naturalmente sono imprese, anche questo conta, e da dire anche che nei provvedimenti varati dal governo c'è qualche buco che riguarda le banche che non consente un'erogazione rapida del credito. Speriamo che si modifichi anche questo. Intanto GR24, ci ritroviamo per la rassegna stampa.